Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio ad agosto del 1805. Bonaparte diventa anche re d'Italia, guai a chi mi toglie la corona, dice. Nasce intanto la terza coalizione antifrancese, 5 potenze contro l'imperatore. Scossa di terremoto in tutto il sud, 5.000 morti, notte all'addiaccio per gli abitanti del regno. Jefferson al secondo mandato, nel discorso di insediamento, aperture sulla libertà di stampa. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Era nelle attese, dopo l'autoincoronazione di Bonaparte a imperatore, l'ormai ex generale si è anche attribuito il titolo di re d'Italia. In questi mesi la parte d'Europa che non è sotto l'influenza francese si sta riorganizzando. La formazione di una terza coalizione contro Parigi, con componenti il Regno Unito, quello di Napoli e quello di Svezia, l'impero austriaco e quello russo, non sembra però al momento preoccupare il neo imperatore Napoleone Bonaparte, che il 26 maggio nel Duomo di Milano ha fatto dar luogo ad una cerimonia analoga a quella di Notre Dame a Parigi. Ma in questo caso con la corona di ferro che dai tempi dei re longobardi viene posta sul capo di chi assume il titolo di re d'Italia e il cui cerchio interno di ferro, di cui il nome, si dice sia stato realizzato con uno dei chiodi della croce sulla quale morì Cristo. Incoronandosi pare abbia detto «Dio me l'ha data, guai a chi me la toglie». Francesco Melzi de Ril, fino a oggi vicepresidente della Repubblica, è stato nominato grande cancelliere guardasigilli. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. La cronaca è il 26 maggio di questo 1805, poco dopo le 22, una violenta scossa di terremoto ha squassato l'intero sud Italia, frutto probabilmente della nuova attività che sta registrando il Vesuvio. Particolarmente colpito il Molise. Delle 5.000 vittime, 1.000 si sono registrate nella sola Isernia. Paura e molti danni anche nella capitale del regno, Napoli, dove la gente ha passato la notte fuori casa. Per il re Ferdinando IV un padiglione è stato allestito nello spiazzo antistante il castello. Il sisma sta diventando noto come il terremoto di Sant'Anna per il giorno nel quale è avvenuto. Negli Stati Uniti si è insediato per il suo secondo mandato presidenziale Thomas Jefferson. Nel suo discorso alla nazione ha toccato molti aspetti cruciali, tra cui quello della libertà di stampa, dopo l'abolizione del Sedition Act varato dall'amministrazione di John Adams, che prevedeva una stretta sui mezzi di informazione. Pur essendo stato oggetto di una dura campagna di stampa, Jefferson ha detto: il nostro primo obiettivo dovrebbe essere di lasciare aperte all'essere umano tutte le vie che portano alla verità. Inizialmente era stata composta a quanto pare pensando proprio a Bonaparte, poi Ludwig van Beethoven ha cambiato idea quando Napoleone si è incoronato imperatore, così la sua terza sinfonia, soprannominata l'Eroica, l'ha dedicata al principe Joseph Franz Maximilian Lobkowitz. L'esecuzione in agosto a Vienna, con un'orchestra diretta dallo stesso Beethoven, è stata un grande successo. È tutto per questa edizione, curata da Simone Spezia, che la condotta è Paolo Piacenza. Sul nostro sito www.radio24.it, oltre a riascoltare la versione audio del Gazzettino, potete come sempre scaricarne una versione da leggere, volendo stampare. Se volete scriverci e non avete penne e calamaio, l'indirizzo email è gazzettino@radio24.it.